Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Chi vi parla è Roberto Galullo, solite informazioni di servizio. Allora, la prima, quella relativa al sito radio24.it. Potrete visitarlo, dialogare con i conduttori che hanno un blog, voi il mio lo conoscete, si chiama Guardi o Ladri, lo trovate anche sulla homepage del Sole. Ma soprattutto potrete anche scaricare le puntate che non avete ascoltato, entrare a scaricarle via podcast, ascoltarle con calma, insomma un sito molto ricco. Seconda informazione è quella che riguarda la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, alcuni giorni fa la nostra mail è stata raggiunta da un radioascoltatore che ci ha fatto presente, un radioascoltatore e una radioascoltatrice, ci hanno fatto presente un problema che io giudico gravissimo. Perché? Perché stiamo parlando del rischio, anzi più che rischio, la certezza talora dell'abusivismo nella professione di fisioterapista, quindi nella professione che porta molti di noi ad usufruire dei vantaggi della fisioterapia. Allora, voi sapete quanti sono in giro per l'Italia i cialtroni, sapete quanti sono in Italia i truffatori che sempre più spesso, ahimè, si inseriscono anche nel ramo della medicina o comunque delle professioni paramediche e anche della odontoiatria. Sapete quanti sono i falsi dentisti, di alcuni di loro abbiamo anche parlato, sono moltissime oltretutto le trasmissioni che hanno affrontato il tema. Allora, noi dedicheremo due puntate a questo tema perché ci sembra davvero molto molto importante. Con la salute non si scherza, e per farlo abbiamo chiamato nella prima puntata, quella odierna, Simone Patuzzo, che è il vicepresidente nazionale del Sindacato Italiano Fisioterapisti. Buongiorno Patuzzo. Buongiorno, buongiorno. E Floria Virgillitto, che è presidente dell'Associazione Nazionale delle Vittime dell'Abusivismo in Riabilitazione. Buongiorno Virgillitto. Buongiorno a voi. Allora, cominciamo con un'informazione secca. Il sito del Sindacato Italiano dei Fisioterapisti è spifsavonapalermoimolafirenze.it. Questo è un sito di riferimento. Allora Patuzzo, innanzitutto, quanti sono i fisioterapisti abilitati in Italia? I fisioterapisti in Italia sono 55.000, quelli realmente abilitati. Ecco, ma per essere abilitati alla fisioterapia, alla professione fisioterapica, di cosa c'è bisogno? C'è bisogno del percorso di laurea in fisioterapia con l'esame di Stato che consiste nell'esame finale praticamente. L'esame finale del corso di laurea equivale ad un esame di titolo abilitante. Ecco, statale, io glielo chiedo perché così almeno sia chiaro a tutti i radioascoltatori che non è una professione come tutte quelle degne di questo nome inventata. Ci vuole studio, applicazione, cultura e soprattutto abilitazione. Allora Patuzzo, io davo il vostro sito prima, spif.it. In che modo può essere di aiuto il sito, ma in che cosa può esserci di aiuto lei, Patuzzo, nel condurre i radioascoltatori alla possibilità di sapere di fronte a chi si trovano? Cioè, come faccio io, comune cittadino, a capire che non mi trovo di fronte ad un impostore, ad un ciarlatano, ad un delinquente, ma mi trovo effettivamente di fronte ad un fisioterapista abilitato, professionale e professionista? Il titolo di fisioterapista attualmente viene conseguito tramite la laurea in fisioterapia che si consegue presso le facoltà di medicina e chirurgia nelle università. Quindi questa è già come dire, una certificazione, no? Che la figura ha il percorso idoneo, quindi certo. un utente può anche richiedere chiaramente al fisioterapista di fargli dimostrare il titolo conseguito. Ecco, quindi questa ovviamente è già una prima garanzia. Esattamente, questa è la prima garanzia. Ma poi esiste ad esempio un elenco pubblico o da voi reso disponibile attraverso il sito o attraverso le vostre dislocazioni territoriali affinché io ad esempio possa capire che Roberto Galullo fa il fisioterapista oppure è un cialtrone perché non è un fisioterapista? Noi sul nostro sito abbiamo creato una pagina però che elenca soltanto i liberi professionisti che esercitano, diciamo, e soprattutto nel nord Italia, collegando tale pagina alle altre associazioni di fisioterapisti che ne rappresentano altrettanti. Quindi abbiamo cercato di fare in modo di fornire un'informazione più completa possibile sui nominativi, però stiamo parlando semplicemente di fisioterapisti di professionisti, tra l'altro proprio non tutti, certo, perché non è obbligatoria, no? Questa iscrizione è volontaria, no? Quindi molti magari restano fuori, e poi per non parlare di quelli che magari sono dipendenti di strutture sanitarie, che chiaramente magari non hanno interesse neanche a comparire su un elenco su internet. Ma assolutamente, questo è corretto, ma quantomeno sappiamo che loro hanno una patente implicita per il fatto stesso che lavorano all'interno di strutture ospedaliere e di strutture sanitarie. Sì, di sicuro le strutture sanitarie pubbliche, quelle anche private convenzionate, esatto, sono particolarmente, esatto, tutelate. In realtà poi noi denunciamo sempre il problema dell'abusivismo, faccio una parentesi, nell'ambito delle strutture private. Prego, certo, ma ne parli pure. Ecco, noi abbiamo, come dire, la necessità che le strutture private siano soprattutto verificate, perché le strutture private a volte non hanno né gli standard previsti, diciamo, da alcune leggi regionali che gradatamente adesso sono in fase di realizzazione o di applicazione, e appunto per centri privati di solito possono mancare, diciamo, più facilmente rispetto a un ospedale pubblico di quelle garanzie di personale abilitato che sono previste, diciamo. Noi per esempio nella regione Veneto abbiamo investito molto con la regione affinché producesse un qualche tipo di azione nei confronti delle ASL, che noi riconosciamo come gli istituti che devono, diciamo, fare le verifiche sul territorio, perché i controlli sicuramente non possiamo esercitarli noi, che non siamo né investigatori né, come dire, titolati, no? Certo. Entrare dentro a vedere che personale esercita. Ecco, e tra l'altro, notizia dell'ultima ora, se la posso dire. Prego. Che proprio qualche minuto fa l'assessore alle politiche sanitarie Sandro Sandi della Regione Veneto ci ha scritto che emetterà proprio in data odierna una lettera ai dirigenti generali delle ULS del Veneto, nella quale segnalano il problema dell'abusivismo, sollecitando la massima attenzione nei controlli a tutela della professionalità degli addetti della salute. Bene. Dei cittadini. Benissimo. Allora, questo per dimostrare, no, certo, che la Regione Veneto, certo, attualmente ha preso in mano il problema. Benissimo. Speriamo che lo facciano tutte le altre. Ovviamente. Benissimo. Allora, quando andremo in onda ci saranno state le elezioni regionali, quindi non sapremo se l'assessore sarà ancora in carica, ma comunque poi questo non ha troppa importanza. Allora, Flora Virgillitto, lei è a capo dell'associazione delle vittime dell'abusivismo in riabilitazione. Quante siete in tutta Italia? Allora, come associazione siamo, la sede è a Trento, ma noi collaboriamo con lo SPIF, con altre associazioni sul fenomeno dell'abusivismo. Ecco, quanti casi avete raccolto di vittime? Abbiamo raccolto, allora, faccio una precisazione, noi siamo nati nel 97, quindi abbiamo alle spalle un bel curriculum di esperienza dove noi appunto raccogliamo tutte le segnalazioni dei cittadini dall'Italia del Nord a isole comprese, dove dicono che loro hanno subito dei danni, ecco, o si presume che ci siano dei danni da abusivismo nella riabilitazione. Io per questo do il sito, è molto importante. Allora, abusivismoinriabilitazione.it. Lo ripeto, abusivismoinriabilitazione.it. Tutto attaccato, ovviamente. Quanti casi avete raccolto finora, Virgilio? Allora, dal 97 possiamo fare una stima di 3.000-3.500 casi documentati. E come diceva Patuzzo prima, il guaio è che ci sono anche dei professionisti, tra virgolette, che si spazzano tali anche nelle strutture pubbliche. Noi abbiamo fatto una segnalazione ai NAS di Torino tempo fa, il quale poi ci hanno mandato un'email ringraziandoci, perché avevano scoperto che questa persona da noi segnalata non aveva nessun titolo di studio. Questo di una gravità. Si spazzava per fisioterapista, ma aveva tutta la documentazione falsa. Il caso vuole che da una piccola segnalazione poi invece hanno scoperto che questa c'era una rete di documentazione falsa che girava per l'Italia. Ecco, quindi di conseguenza parecchi professionisti non lo erano, e questi creano soprattutto danni. Certo, assolutamente. Sì. è questo di una gravità assoluta, perché obiettivamente nelle strutture pubbliche ci si aspetterebbe ben altro. Allora, io ringrazio i nostri due ospiti. Come ho detto, questa è la prima puntata. Domani continueremo a parlare del problema dell'abusivismo nella fisioterapia, quindi professionisti che tali non sono ma che operano in questo campo. Grazie in regia a Fabio Cantadori ed in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Carullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.